Alessandro Milan, l'oro in bocca del mattino. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Noi abbiamo fatto cose propagandandole come riforme rivoluzionarie, che non lo sono, tipo lo sblocca Italia, che ha un sapore lupigno, come dice Camilleri, nel senso che è proprio di Maurizio Lupi, che era lo stesso Maurizio Lupi che era il governo prima, a proposito di nuovo, sì, vecchio. Civati, Civati, io ho dormito 5 ore e mi devo svegliare con Civati, che fa un ragionamento che io non ho capito bene. Cos'è Camilleri... Lupi, sono le 6:34 minuti, buongiorno cari italiani, è venerdì, ieri c'è stato il pienone al live di Platone, il che vuol dire che ho dormito 4 ore, abbiate pazienza, portate pazienza, ma sono qui. Ieri, uscendo dal Sole 24 Ore a una certa, tipo alle 11, ho visto la guardia notturna qui, quella che vedo anche al mattino, l'ho visto, l'ho salutata, ho detto ci vediamo tra 5 ore, con i giornali, va bene, salve, arrivederci, notte, va bene. Si chiude oggi la 73esima settimana decisiva per l'abolizione delle province e la riforma elettorale. E sul giornale ci fanno sapere che da domenica si vota per le province. Ma come? Sì, ebbene sì, c'è il rinnovo delle province che sono state abolite come io sono un frate francescano. Saluto Miriam Lucchetti in redazione, che mi fa il segno, come dire, beh, tu sei un po' un frate francescano, effettivamente. Saluto anche Peter Bescapè, regia, si apre al Parlamento, forza che è venerdì. Dai che è venerdì. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Dai lo schema Allegri, che è venerdì. Saluto subito Vincino. È venerdì, Vincino, come stai? Di schifo, però va bene. Ma come di schifo? No, dai, non ci puoi accogliere così di schifo. No, va bene, non è che è normale, insomma, non ho preso ancora il caffè, ecco qua. Vabbè, cerca di capire. Allora, caro Vincino, ti saluto un altro amico del Parlamento, il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che suona un po' come Renzi, ma non troppo. Rienzi. Siamo proprio lontani. Tranne che nella voglia di comunicare come fa lui con questi sistemi, il gelato, le battute, insomma, sì. Mi piace molto come comunica, sì. Sì. Prende un po' per il sedere, ma insomma. No, ma no, come? Ma attenzione, qua c'è Vincino che ha scritto la cavalcata di Matteo Renzi. La cavalcata, giusto? No, aiutami. Sì. La cavalcata. È questo, la cavalcata. La cavalcata. Chissà perché mi ero immaginato la grande cavalcata, un po' più un'epopea proprio. Invece la cavalcata. A quante coppie? A quante coppie stai? Stiamo andando, stiamo sulle 15.000, diciamo. Ah, vabbè, diciamolo, Cairo Editore, che è l'editore. Stiamo andando alla cavalcata parte seconda. No, dico che è l'editore. È l'editore migliore d'Italia, però questo si sa. Che sta ancora questo sopravvivere, sì, tra le edicole, ecco. Ecco, sì, è chiaro. Allora, è tutto pronto per lunedì, la direzione del Partito Democratico. Vincino, come te la immagini dovessi... Come le ultime direzioni del Partito Democratico. Cioè? No? Cioè, lui arriva e dice due cose, poi ci sono un poco... parlano un po' quello e quell'altro, e poi ritorna, ridice altre 4 cose, le convince tutti, poi votano e il 93% stanno con lui. E quindi potrebbe non farla, potrebbe. No, come dire, la fa perché c'è bisogno di un atto formale, tranquillo, perché poi così, insomma, quando sei gruppi parlamentari non votano come dice la direzione, e là fanno... c'è la secessione, c'è la scissione, come dire, addirittura la secessione, ci sono gli antipartito, delle cose proprio, mamma mia, che nella loro storia sono proprio, li fanno stare malissimo, no? Insomma, però Vincino ci dice potrebbe anche non andare, dai, per una parvenza di democrazia all'interno, si chiamano Partito Democratico, e quindi devono farle queste cose, devono farle. Le loro messe cantate, dai. Adesso addirittura ha sentito Renzi, una messa cantata sarà. Io mi preoccupo della corruzione qua. Che ma che c'entra la corruzione? No, invece di fare tutte queste sceneggiate che fanno. Ma che sceneggiate? La direzione di un partito? Di riunirsi. Stanno parlando dell'articolo 18 da mesi per non parlare della crisi del paese, del fatto che non ci sono i soldi per fare la spesa, che abbiamo perso miliardi di euro di spesa dei cittadini. Però guardi che adesso arriva una proposta, noi ne parleremo, è passata un po' sotto traccia, però è una proposta, ne parleremo con il sottosegretario all'interno Domenico Manzione, sarà il nostro ospite alle 8:15, caro Vincino, apri bene le orecchie, sai qual è la proposta? È per rilanciare anche i consumi, 30 euro a testa al giorno a famiglia se ospiti un immigrato. Poi chi lo fa mangiare l'immigrato? No, 30 euro al giorno, sono 900 euro al mese. Capito? Ah, ecco, 30 euro per far mangiare l'immigrato. Ma no, farlo mangiare. Per far mangiare e mantenere l'immigrato. Mamma mia, cosa? L'immigrato viene messo in uno scabuzzino e i 30 euro me li mangio. No. Certo, Vincino, non è che... Come tu lo ospiteresti un immigrato, 30 euro al giorno? Ma 30 euro al giorno, come dire, quanto? 10 ce lo faccio. Sono 900 euro al mese. Ma è ovvio che saranno gli anziani, no? Ma ho capito, ma 900 euro al mese è un'onesta pensione, dai. Si può fare. Sì, si può fare. Non è che rilancia niente, non è che, cioè, per dire. Ma sono 900 Roma, euro al mese, altro che gli 80 euro. A Roma ci sono qualcosa come 30.000 bed and breakfast, come dire, questi clandestini, no? Sono ogni palazzo, cioè io abito in un palazzo, quando sono arrivato, non so, 20 anni fa c'erano 30 famiglie, oggi ci sono 15 bed and breakfast e 10 famiglie. Ma questa situazione è in tutto proprio. E la gente. Tutto. Qualcosa, 200.000 bed and breakfast, Roma clandestina. E la gente si adatta, che devi fare? Per cui, insomma, quelli che non hanno fatto il bed and breakfast per bene, insomma, si acchiappano il costo. Invece di prendere 100 euro al giorno, ne prendono 30. Per cui siamo in questa logica qua. Ma non solo il bed and breakfast, ma li fanno senza. Il Comune di Roma li dà. Senza guardare se hanno gli ingressi o l'attrezzatura. Guarda che ha già fatto qualche sposto sicuramente il Codaco. Hai voglia. La sentenza del Consiglio di Stato su questo. Vincino, hai voglia. L'autorizzazione. Ma c'è una materia, Renzi, sulla quale non avete ancora fatto un esposto? Sto pensando. Ecco. Non so, la quantità di cloro nelle piscine comunali. Vincino, questo è un problema. Assolutamente. C'è una puzza di cloro pazzesca. Una piscina comunale dal 71, meno, c'ho le figlie che ci andavano quando erano piccole. Ma qua è una pazzia collettiva, siamo partiti dal PD e la direzione per parlare del cloro nelle piscine. Il Codaco non fa esposti molti e voti pochi, questo è il problema. Mica è un partito. Non ho capito, voti? Voti? Noi voti che ci prendono i voti? Mica vogliono i voti. Di volta in volta, da qualche parte. Tu ti sei presentato più volte da qualche parte. Se ricordi ancora gli anni... quando Di Pietro e non mi Madonna mia, col peggiore del mondo. No, perché Vincino c'è questo mistero. Carlo Renzi ci deve spiegare da anni cosa è veramente successo tra lui e Di Pietro. Ma ci dice sempre la prossima volta. Siamo contro i giudici che vanno a fare la politica. E chiederemo anche la decadenza di De Magistris, la cui nomina a suo tempo, la cui autorizzazione a far politica fu impugnata al TAR. Addirittura, da avete chi? Avete visto Napoli da chi? Ieri? Da voi? Da chi? Da voi? A servizio così da noi. Beh, certo. Noi. No, ecco, appunto, Vincino, vorrei un giudizio stringente. La via burocratica alla rivoluzione. Sì, la via burocratica, vanno esposti su tutto. Però su i risultati li otteniamo, Non vi dimenticate che abbiamo fatto rimettere le strisce bianche a Roma, che adesso vogliono togliere, vogliono far pagare il parcheggio pure ai residenti. Ho capito, ma io dico, ma c'è che... Allora, De Magistris è candidato allora sindaco, adesso, e voi avete fatto un esposto al TARP, questo... A suo tempo facemmo esposto. Ma perché? Ma è esposto un ricorso, perché l'autorizzazione del CSM per andare in politica non dovrebbe essere data quando uno ha fatto il magistrato fino al giorno prima. Capito, poi Vincino? Per sfruttare la propria posizione, che è importante. Ma il magistrato, voi avete mai fatto un'inchiesta seria dei magistrati? Ma per favore. Peggio ancora. No, vabbè, peggio comunque ancora. La notizia è questa. È andato sui giornali e ha preso i voti. Ho capito ancora. Che sul PD, insomma, vabbè, aspettiamo lunedì la direzione. Però, ma è interessante questa cosa, perché De Magistris oggi è su tutti i giornali, perché con la condanna in primo grado rischia Severino e dunque sospensione da sindaco. Vincino, ma tu che giudizio dai? Tu che hai giudizi un po' stringati a volte, anche sì, un po'. Su De Magistris, due meno. Adesso due perché? Meno. Dall'alto, uno, dall'alto no, di quale cattedra? Guarda, essere il peggior sindaco di Napoli è difficile, perché proprio c'è stato qualcuno non terribile, quello prima di Bassolino, vecchio comunista là, del coso. Mannaggia. Poi Bassolino all'inizio non è andato manco malissimo, no? poi quella un disastro pure lui, vabbè, ma De Magistris proprio lui, suo fratello, una cosa vergognosa, guarda. Vabbè, due meno meno, ma se vivi a Roma tu cosa ne sai di... A Roma so quanto può essere scarso un sindaco attualmente, poi come dire. Ah vabbè, e abbiamo sistemato anche Marino, devi sistemare qualcun altro? non lo so, vuoi sistemare qualcun altro? Io vorrei che il Conor riuscisse a fare cadere il presidente della regione siciliana. Ah, e quindi pure Crocetta abbiamo. Fa un bel ricorso Codacons, un bel ricorso in Sicilia su qualcosa. Il flop dei giovani che dovevano lavorare e che non ha funzionato. No, capito, ma un ricorso. E quello è contro Crocetta, perché la regione che l'avete fatto. Stiamo raccogliendo le adesioni. È chiaro, vabbè. Capito, Vincino, stanno raccogliendo le adesioni. €500 al mese, insomma, poi era una cosa proprio pietosa pure quella. Vabbè. Allora facciamo così, andiamo a sentire il traffico, poi vi voglio far sentire Renzi e l'inglese. Insomma, puntata ennesima di Renzi e l'inglese, e poi sono giorni che ci si scervella sui giornali di che cosa avrà voluto dire con quell'editoriale due giorni fa Ferruccio De Bortoli in prima pagina sul Corriere della Sera. Due giorni che i giornali parlano di un editoriale di due giorni fa. 24 mattino. Buongiorno dottor Mina, mi chiedevo in quale paese normale un partito mette in discussione il proprio leader che lo porta al 41%, vabbè, anche se delle europee. È un po' come dire che un'azienda mette in discussione il proprio amministratore delegato perché gli ha fatto guadagnare troppi soldi. Ma misteri della sinistra italiana. Buon lavoro a tutti. Grande crollo del turismo in Italia. Teniamola pulita l'Italia, non gettiamo l'immondizia in giro. Siamo un segno di civiltà ed è anche un notevole risparmio di spesa. Andiamo! Milan, parliamo di calcio un attimo, anche se abbiamo tanti altri problemi. La Juve continua a rubare, poi a fine campionato non ce ne si ricorda più. Avanti. Buongiorno Milan, vista la diatriba che c'è su quale opere d'arte portare all'Expo di Milano, io vorrei buttare giù un'idea. Portiamoci l'indistruttibile busto che ha vicino nel suo giardino. Signore Milan, che te pozzino via fuoco, oggi l'hai impasticato il fuoco? Te pozzino. Senti, vorrei consigliare a Renzi un equipaggiamento da valombaro ciclista. Lo scafandro gli servirà per supportare le botte lunedì alla riunione del PD. E la bicicletta per scappa via se le cose si metteranno male. Sempre a imbasticare lo fuoco. Ciao Milan, ciao. Grande Angelino, eccolo qui tornato. Allora, il busto di Andreotti effettivamente è un'idea geniale all'Expo. Caro Vincino, hai sentito? Assolutamente sì, sono dispostissimo a prestarglielo, guarda. Gratuitamente. Questo è un altro discorso. No, nel senso, no, perché assicurazione, costi, cose e quell'altro, come dire. Ma si può trasportare? È trasportabile, ci vogliono tre persone forti e si riesce. Si riesce, il busto di marmo. Lo sa Rienzi che ottima idea. Lo sa Rienzi che c'ha il busto di Andreotti in marmo sul terrazzo vicino? Ma veramente, è quello del Codagon? Ma che è il busto del Codacons? Ma che è il busto del Codacons? Io mando una mia fotografia, faccio fare un busto, no? Ma che è un terrazzo senza busto? Bisogna avere un giornale che vende 100.000 copie per fare una cosa così. Ecco. A proposito, allora, questa cosa di De Bortoli, poi sentiamo Renzi. Bene, l'ho capito tutto, io aspetto. Hai capito tutto? Un grande atto d'amore nei confronti di Renzi. Gli dice, stai attento, c'è una congiura massonica nei tuoi confronti. Sì. No, veramente dice un'altra cosa. No, assolutamente dice questo, perché allora la proprietà gli ha detto tu devi fare come Paolo Mieli con Prodi, devi dargli l'avviso 7 giorni. Sì. Poi invece chiama Renzi, che cosa fa? Fa questa cosa un po' intorcignata. Hai capito? Ed è un atto d'amore proprio. Infatti ha capito, stare attento ai fiorentini e ai massoni che gli fanno il golpe intorno. Proprio un atto da... Ma ti piace il nuovo Corriere? Il nuovo Corriere, la grafica? Io amo il Corriere storicamente, no? Come dire, sì, no? Nella storia, e c'ho tutti quelli collezionati, quelli vecchi, no? Sì. Ecco qua, poi nel primo numero del nuovo Corriere c'era una mia vignetta, per cui che potevo fare? E quindi ti piace? Ma non può giudicarlo, no? È compromesso, è compromesso. Bello prima, perché tutti ci eravamo abituati a quel tipo di giornale. Adesso si è voluto adeguare a Repubblica, perché vende forse qualche copia in più. Io suggerirei un esposto. L'articolo in fondo di De Bortoli è invece una giusta critica a Renzi, e la fa bene da tutti gli aspetti, perché c'è l'inconsistenza sostanziale, questo marketing della e poi gli dice guarda che c'è la massoneria che conta più di te. Esatto. Insomma, a proposito però di Renzi, devo farlo sentire in inglese, sentite un po', c'è un sito vice.com che ha tradotto letteralmente quello che un americano un po' distratto potrebbe capire dalla pronuncia non perfetta di Renzi. But the challenge for my government is love our future. I'm jealous of our future. I think the most important. Allora, secondo i Vicecom avrebbe detto sono prendere forma culo del mio futuro. Cioè un americano potrebbe capire così. Jealous. Could think the new prime minister in Italy is officially crazy. I know. This could be a reaction. But this is the non sta migliorando, lascia fare Vincino. Come back. Guarda che parla molto meglio della media degli italiani, lascia fare. Sì, comunque dai, là, non è che deve farsi un anno in Irlanda, a Dublino o in un quartiere di Londra che conosco là. Poi aspetta, c'è questa cosa, lui solo toscani, sentite all'ONU doveva citare Machiavelli, lui solo toscani, Meucci, Machiavelli, Dante, senti Renzi. Auspico il superamento delle tensioni con la Federazione Russa, che mi auguro possa tornare a esercitare il ruolo di attore globale di cui la comunità internazionale ha necessità. All'ONU, Un grande esperto di politica del tempo del Rinascimento, nel mio paese diceva, era Niccolò Machiavelli, eccola. Sapere nella guerra conoscere l'occasione e questa è l'ambizione di essere come Berlusconi, non è amico di Putin, espostone perché non è amico di Putin. Io vi devo salutare, grazie a Carlo Rienzi del Codacons e a Vincino La Cavalcata, la trovate in edicola, Cairo Editore, l'editore più grande del mondo. Faccio il Vincino. Grazie, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Carissimi debosciati d'Italia, alle 7:18 minuti, quando si chiude la 73esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province, sono qui insieme a Peter Bescapè in regia, Miriam Lucchetti in redazione e con 5 ore di sonno sul groppone. Ma ieri gran successo del live di Platone, mando un abbraccio a tutti coloro che erano presenti e mando un abbraccio anche a coloro che ci hanno seguito magari in diretta streaming su radio24.it. però alla sera Leoni, vabbè. Oggi parleremo di che cosa? Questa proposta che ieri abbiamo annunciato è allo studio, o meglio si potrebbe dire era allo studio al Viminale, per dare 30 euro a famiglia che era disposta ad accogliere un immigrato a casa. C'è da dire che ieri c'è stato lo stop del ministro all'interno Alfano, che ha detto questa cosa non verrà mai fatta. Comunque avremo ospite alle 8:15 il sottosegretario all'interno Domenico Manzione, che aveva lanciato questa ipotesi allo studio. Con noi ci sarà anche Guido Bolaffi, che è esperto di immigrazione. Poi avremo anche un deputato di Scelta Civica, uno di coloro che ha fatto una proposta di legge sulla prostituzione. La proposta suona così: multiamo i clienti. Multiamo i clienti delle prostitute. Che ne pensate? Ne parleremo più avanti. Ora i giornali. Questo venerdì 26 settembre, come detto, ho dormito 5 ore, abbiate dunque pazienza e abbiate comprensione. Il Sole 24 Ore apre così: il dollaro schiaccia l'euro ai livelli più bassi dal 2012. Per quel che riguarda le aperture dei giornali, non c'è una notizia che troviamo su tutti i quotidiani uguale, ognuno segue un'apertura un po' propria. Il Corriere della Sera apre sull'inchiesta in Vaticano, il nuovo orrore scoperto, l'archivio segreto del vescovo, 100.000 foto e video di minori. Per Repubblica invece, Stato mafia, Napolitano deve testimoniare, così anche il Fatto Quotidiano, i giudici entrano al Quirinale, Napolitano deve rispondere. Per Libero, Napolitano rischia il colle. Il Messaggero, tagli, i ministeri chiudono prima, è il piano di risparmi del governo, l'uscita serale sarà anticipata di 2 ore per i dipendenti dei ministeri, dalle 20 alle 18. La Stampa, raid sul petrolio dell'ISIS, mentre il Giornale, il caso amianto, De Benedetti accusato di omicidio, chiusa l'inchiesta sulle morti dell'Olivetti di Ivrea, l'ingegnere indagato per omicidio. Per Avvenire, i leader religiosi isolino i terroristi, questo è il titolo di prima pagina. Ma voglio partire subito dall'apertura del Corriere della Sera, davvero incredibile, l'orrore che si spalanca nel leggere l'articolo di Fiorenza Sarzanini a pagina 5, foto hard, video con minori, ecco i 100.000 documenti nei computer dell'ex nunzio. La vicenda è quella dell'ex arcivescovo Josef Veslovsky, arrestato in Vaticano, accusato di pedofilia, di abusi sui minori, soprattutto quando era nunzio a Santo Domingo. Racconta Fiorenza Sarzanini, l'arcivescovo polacco di 66 anni, arrestato 3 giorni fa per volontà di Papa Francesco, custodiva oltre 100.000 file con foto e filmini pornografici, immagini scaricate da internet, fotografie che le stesse vittime erano state costrette a scattare. Si vedono ragazzini tra i 13 e i 17 anni umiliati di fronte all'obiettivo, ripresi nudi, costretti ad avere rapporti sessuali tra loro e con adulti. E nel capo di imputazione si parla esplicitamente di reati commessi in concorso con persone ancora ignote. Insomma, si parla di una possibile rete internazionale, a questo punto, di pedofili, di cui faceva parte anche, secondo l'accusa, l'ex arcivescovo, che incredibilmente, almeno stando alle accuse, dice, questa è la sua posizione fatta filtrare dal Vaticano, posso chiarire la mia posizione, spiegare l'errore. Così l'ex arcivescovo Veslovsky. Però Ovviamente ci sono molte analisi ancora su come Papa Francesco abbia scoperchiato e va davanti, ha rimosso per esempio un vescovo in Paraguay, Monsignor Livieres Plano, è stato rimosso ieri perché aveva rifiutato di dimettersi, l'accusa anche per lui di avere coperto dei reati simili a quelli per cui ha accusato Veslovsky. E però oggi il secolo XIX pone una storia in prima pagina e la racconta e fa capire che la Chiesa dovrebbe guardare oltre che a orizzonti stranieri anche più vicino, così almeno racconta in una omelia, in una predica alla messa durante il funerale di una donna, Luisa Bonello, che nella diocesi di Savona si è battuta e ha combattuto la pedofilia. Ebbene, cosa ha detto il prete Don Lupino nell'omelia? Sostanzialmente ha detto: i vertici della curia di Savona hanno coperto i pedofili, chi deve vada in galera. Addirittura è stato aperto un fascicolo alla procura per istigazione al suicidio di questa donna che combatteva, soprattutto negli ultimi anni, le presunte molestie dei religiosi nella diocesi di Savona. E al funerale Don Lupino, che racconta il secolo XIX con Giampiero Timossi, un prete che, come dire, un prete contro da sempre, da quando è stato ordinato sacerdote rispetto ad alcune gerarchie, ha detto in maniera molto chiara che appunto i vertici della curia avrebbero coperto i pedofili. Questo è il titolo, Savona, l'omelia di Don Lupino, che dice: chi deve vada in galera. Basta con le bugie, non possiamo essere noi gli uomini della menzogna, non possiamo avere doppie vite o doppie verità. Che il sacrificio di Luisa apra le coscienze di chi sapeva e ha taciuto, vescovi, vicari generali, i rettori del seminario. Questo è quello che ha detto il sacerdote nell'omelia. Ormai è chiaro che i vertici della curia erano al corrente dei casi di pedofilia. Allora queste persone si facciano un esame di coscienza. Se devono andare in pensione, ci vadano. Se devono andare in galera, vadano. Il carcere di Savona è dedicato a Sant'Agostino e le celle sono ideali per un ritiro spirituale. E così parlò Don Giovanni Lupino, prete a Savona, dei suoi superiori. Va bene, veniamo alla vicenda De Magistris, che anche oggi sui giornali ha degli sviluppi, perché il sindaco, sapete, è stato condannato in primo grado per il processo quando era magistrato, e ora su di lui c'è il rischio della sospensione in virtù della legge Severino, che prevede che anche in caso di condanna non definitiva, in cui è prevista la sospensione dei pubblici uffici, la persona in questione possa e debba dimettersi. Così almeno titola il Corriere della Sera: per De Magistris rischio sospensione, ma lui dice: io non mollo, non sono interviste, ma a Repubblica rilascia qualche, come dire, dichiarazione, o comunque sono sensazioni raccolte da chi sta attorno a De Magistris, che dice: se mi tolgono l'ufficio da sindaco farò il sindaco per strada tra la gente. Così Dario Del Porto su Repubblica, pagina 19: se mi sospenderanno e decideranno che non dovrò più stare a Palazzo San Giacomo, vorrà dire che scenderò in strada, starò coi cittadini, ma non credo che andrà così, penso che questa sia una sentenza politica. Naturalmente bisogna studiare bene la procedura, l'ipotesi c'è, e cioè quella che io decada, inutile nasconderlo, ma ora cerchiamo di capire bene la vicenda. Tra l'altro La Stampa va anche a intervistare Mastella era il protagonista delle intercettazioni di quando De Magistris era procuratore, che diede il via appunto a questa inchiesta e poi alla condanna ora De Magistris. Mastella, che però è intervistato da Mattia Feltri a pagina 18 della Stampa, dice: non provo alcuna soddisfazione, anche se allora fui umiliato e devastato da quella inchiesta e dalle campagne di stampa. Comunque non ne faccio una questione. Allora e oggi le inchieste, se riguardano i politici, sollevano un'offensiva mediatica, giudiziaria, violenta, irresistibile. Ma non provo alcuna soddisfazione, spero soltanto che la mia vicenda dimostri che questo modo di fare è disastroso. E poi Mastella che dice: ora ricevo molte telefonate che mi fanno piacere, soprattutto da sinistra. Vabbè, la vicenda De Magistris come finirà chi lo sa. Intanto vince il premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa più incazzare in questa giornata. Il Giornale con Andrea Cuomo racconta in una pagina: arrivano le elezioni più pazze del mondo, perché bene sì, cari ascoltatori, non sono bastate 73 settimane decisive evidentemente, ma c'è la prossima, la 74esima, confidiamo. Non è bastata qualche dichiarazione, non sono bastati progetti di legge per revisione, le province sono vive e vegete e lottano insieme a noi. Certo, non andremo noi da domenica a votarle, le voteranno, non voteremo noi il consiglio provinciale. È vero, non ci saranno gettoni, pagamenti, ma ci saranno consigli provinciali, presidenti eletti semplicemente dai sindaci, dagli amministratori dei comuni, delle province in questione. Insomma, le elezioni più pazze del mondo, scrive il Giornale. Le province sembravano abolite, ma da domenica si vota. Alle urne vanno i sindaci e i consiglieri uscenti. E racconta Andrea Cuomo, come hanno fatto vari giornali in queste settimane, tutte le alleanze tra PD, Forza Italia, NCD, CCD, insomma, i partiti che si devono spartire le poltrone dei presidenti delle province, dei consiglieri provinciali. Insomma, morale: se le province sono abolite, io sono un frate trappista. Ascoltate Alino Milan, l'unico giornalista che legge il presente, ricorda il passato, predice il futuro. Alessandro Milan, al suo segnale, scatenate l'inferno. Allora, lunedì prossimo, come abbiamo più volte detto, c'è la direzione del Partito Democratico con la quale Renzi parlerà, medierà o non medierà, e poi si voterà per quel che riguarda la riforma del lavoro, la posizione del partito. Jobs Act stop ai Cocopro, questo è il titolo di pagina 6 del Sole 24 Ore. Davide Colombo ed Emilia Patta raccontano quali sono le ultime strategie del Premier, anche se la linea pare dettata, ed è questa: nessun compromesso. Il compromesso, che è quello evocato da Pierluigi Bersani quando ha detto: una sintesi non solo è possibile ma anche agevole, basta volerlo. La risposta a distanza di Renzi, che ieri ha parlato all'ONU ed è in rientro dunque da New York, è questo: in questo caso il compromesso non è la strada. Renzi dice: questo non è il momento del compromesso, ma del coraggio. E ai suoi ha confermato su reintegra o indennizzo scelta secca: o si lascia o si leva. Nessuna via di mezzo. E anche il ministro al lavoro Poletti ha escluso soluzioni pasticciate all'italiana, facendo capire che sulla strada del superamento dell'articolo 18 non si torna indietro, non ci si può fermare davanti a tabù. Così il ministro Poletti. Dunque si profila cosa? Uno scontro, si profila una direzione molto combattuta. In realtà i numeri Renzi li ha, come racconta Repubblica a pagina 6 con Francesco Bei: non faccio compromessi, il 70% del PD è con me. Così Renzi tira dritto sull'articolo 18. Tra l'altro, racconta Repubblica, ci sarebbe anche il giallo, c'è il giallo di un colloquio che ci sarebbe stato, con una voce diffusa a New York, un misterioso faccia a faccia due giorni fa tra lo stesso Presidente del Consiglio e Massimo D'Alema in un corridoio dell'hotel Sheraton dove si svolgeva l'annuale convegno organizzato dalla Fondazione Clinton. L'incontro è stato ufficialmente smentito dagli staff, ma l'incontro sarebbe servito a mettere in chiaro l'intenzione di non retrocedere sui contenuti del Jobs Act. Comunque Renzi, che ha fatto anche varie interviste ai giornali americani come al Wall Street Journal, ha detto: il mio impegno è chiaro, voglio realizzare le riforme indipendentemente dalle reazioni. La riforma del mercato del lavoro è una priorità. Se i sindacati sono contrari, per me non è un problema. E a proposito del rapporto con i sindacati, proprio con i sindacati si concentra nel classico retroscena quotidiano Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. È interessante il rapporto tra Renzi e sindacati, un rapporto tribolato fin da quando egli era sindaco di Firenze. E arrivato al Nazareno come segretario del PD, è stato il primo segretario a non incontrare i leader di CGIL, CISL e UIL. Dunque nessun trattamento di favore per la Camusso, Bonanni e Angeletti, stesso identico comportamento da Palazzo Chigi. Però c'è da dire che Renzi, che non ama i sindacati, scrive il Corriere, qualche eccezione la fa. E la fa, si prenda per esempio il caso di Maurizio Landini, e qui si racconta che Renzi e Landini si scambiano molto spesso, anche su questa riforma del lavoro, SMS e dunque pareri, perché Renzi apprezza di Landini che cosa? È uno pragmatico. Questo dice Renzi del leader della FIOM, e in passato ricordate si era anche creata qualche maretta tra lo stesso Landini FIOM e Susanna Camusso della CGIL per questo rapporto privilegiato che Landini ha con il Presidente del Consiglio. In ogni caso, Renzi non vuole compromessi, vedremo lunedì, buon weekend rasserenante a tutti, e poi si aprono le battaglie alla direzione del PD. Vabbè, ci sono le solite interviste, Stefano Fassina viene intervistato dalla Stampa, da Francesca Schianchi, e dice: per aiutare i precari rischiamo tasse più alte. La delega così com'è non si può votare. C'è Cuperlo, ex presidente del PD, che dice: Matteo non ci dica prendere o lasciare, a meno che non punti a cacciare il dissenso. Cuperlo parla a Repubblica in un'intervista di Giovanna Casadio. Non siamo i Flintstones, non vogliamo da cavernicoli conservare l'articolo 18, dice Cuperlo. Il lavoro non è solo un reddito, è dignità e libertà della persona. Ma se Renzi tira dritto, voi che fate? Andar dritto significa che il merito scompare? Risponde Cuperlo. O che non si discutono Jobs Act e legge di stabilità? Se vuoi tutelare 1 milione di persone con un'indennità di 800 euro mensili, devi avere delle risorse certe, devi averle subito. Ma è legittimo, dopo la direzione del PD, il dissenso in Parlamento, chiede Repubblica. Il Parlamento discute e vota emendamenti. Io non voglio stravolgere l'impianto della riforma, ma voglio che la riforma funzioni. Vabbè, e quindi vedremo lunedì. Io invece dico: non se ne può più, lo dico convintamente, di tutte le interpretazioni ancora oggi, Libero pagina 4, Il Giornale pagina 5, tutti a scervellarsi sull'editoriale di 2 giorni fa di Ferruccio De Bortoli, che certo ha fatto molto rumore, direttore del Corriere della Sera, con l'attacco frontale a Renzi, egocentrico, ego ipertrofico, il patto del Nazareno che odora di massoneria, insomma un attacco molto duro. Ma basta, basta fare paginate a cercare di capire cosa ci sia dietro questo attacco, i poteri forti che hanno abbandonato il Premier, insomma le cose che agli italiani non interessano o interessano sotto zero. Mentre si litiga nel Movimento 5 Stelle per una questione di diaria degli eurodeputati, racconta Repubblica con Annalisa Cuzzocrea. Grillo ieri ha ordinato: d'ora in poi parlamentari europei del Movimento 5 Stelle si impegnano a devolvere 1000 euro delle loro indennità personali al sostegno di iniziative e servizi che facilitino il rapporto di cittadini e piccole imprese con l'Unione Europea. Lo hanno fatto soprattutto dopo aver visto che c'è gli europarlamentari spagnoli del movimento spagnolo Podemos avevano dimostrato che si può fare di più. Loro tengono per sé solo 2000 euro al mese, solo che apriti cielo, racconta Repubblica, sarebbero volate addirittura urla ieri mattina in una riunione negli uffici di Bruxelles del movimento, perché loro questa decisione i portavoce in Europa non la conoscevano, l'hanno subita dall'altro, e quello che trapela, come racconta Repubblica, è che sia stata una scelta dello staff, però imposta, con per esempio Ignazio Corrao, capogruppo in Europa, che all'agenzia DN Cronos, pur negando la sorpresa davanti alla decurtazione, spiega: nessuno di noi si sta arricchendo. Se tolgo le spese che sostengo qui tra Bruxelles e Strasburgo, mi ritrovo meno di quanto guadagnavo in Italia. Certo, non mi lamento, ma non ci sto a passare per privilegiato. E vabbè, questa è la paga del Movimento 5 Stelle che sta facendo discutere in Europa. Mentre si discute molto di rapporto Stato-mafia e la decisione da parte dei giudici di reiterata di fare deporre il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Questa la vedremo tra poco, però prima, visto che si paga di si parla di grandi paghe, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che attenzione, devo fare un annuncio, devo fare un annuncio. Mi segnalano, prego. Mi segnalano, sì, che oggi davanti alla borsa a Piazza Affari. Perché sei silenzioso? Alle 17:30. Sì. Alle 17:30. È tutto giusto finora? Finora è tutto giusto. I Chapter 11. Sì, esatto, sì. Gruppo in cui milita anche Mauro Meazza, suoneranno e faranno un concerto davanti alla borsa. Per beneficenza, per beneficenza, per beneficenza. Beh, è fondamentale. Ma avete capito, cari ascoltatori, Mauro Meazza suona nei Chapter 11, 17:30, Piazza Affari. Caffè pagato, caro Alessandro, ma non ero qui. È inutile che tu cerchi di stuzzicare la mia benevolenza, perché sulla TASI ti interrogo lo stesso. eccolo lì, vabbè. Non avrò pietà assolutamente, guarda che lì il 16 ottobre arriva, il tempo fugge, l'uomo non se ne avvede. Infatti anche oggi, nelle pagine di Norme e Tributi, c'è un ulteriore approfondimento sulla TASI e ci sono anche le prime risposte ai quesiti che sono stati inviati dai lettori. Poi, se tu volessi anche migliorare la tua conoscenza, ti segnalo sul sito del Sole 24 Ore lo speciale SOS TASI, quindi basta scrivere www.ilsole24ore.com/, che sarebbe la sbarretta, SOS TASI, SOS TASI. Vabbè, questo ti ringrazio, il caffè pagato lo stesso per quanto fai per la buona musica. Va bene. Però io no, avevo un po' di dati, ho visto un sacco di numeri in negativo oggi sul Sole 24 Ore, cercavo qualcosa in positivo per non lasciarci proprio con un fine settimana incalando. È che ho visto che i consumi sono calati, che il nord cala nei consumi più del sud, e questo lo riferiamo in imprese e territori, non è un bel segnale, e che il credit crunch continua a mordere, e nelle pagine di finanza spieghiamo che siamo ormai a una riduzione di 422 miliardi di prestiti alle imprese. Cos'altro possiamo dire? Anche la tua squadra mi sembra un po' in calando. Il concerto alle 17:30 è stato annullato davanti alla borsa. I Chapter 11 non suoneranno più. Comunicazione. Le compravendite degli immobili hanno frenato di nuovo dopo un'iniziale risalita della prima parte del 2014. Insomma, non sono riuscito a trovare un segno più. Che ti devo dire? Andrà meglio settimana prossima. Guarda, sì, sicuramente. Mi sembra che oggi si chiuda la settimana decisiva. 73. No, non esagerare. Ah, scusami. Adesso, No. Però sai che mi porto sempre un po' avanti io. Esatto. Un segno più c'è stato nella raccolta dei fondi comuni, ma per tutto questo adesso sarebbe complicato spiegare, non posso neanche cantare nulla a quest'ora del mattino, e allora ti auguro una buona domenica, un grazie, buon fine settimana, e speriamo di ritrovarci con dei segni più, chissà, lunedì prossimo. Alessandro Milan, lo zedi dell'informazione, che lo sport sia con te. Addirittura, siamo sempre più in fase epopea, proprio. Allora, come detto, Giorgio Napolitano dovrà deporre nel processo a Palermo sulla trattativa presunta Stato-mafia. La decisione della Corte d'Assise di Palermo, come racconta Donatella Stasio, la notizia è arrivata una manciata di ore prima della cerimonia al Quirinale per il passaggio del testimone dal CSM scaduto a quella appena letto. Quindi pensate, la notizia è arrivata poche ore prima che Giorgio Napolitano incontrasse i magistrati al CSM, lui che presiede, essendo capo della Repubblica, il CSM stesso. E tra l'altro in questa cerimonia c'era anche un magistrato, Morosini di Palermo, che è protagonista appunto di quella procura e della trattativa Stato-mafia, per cui c'è stato anche questo momento, come racconta Liana Milella su Repubblica, dove i presenti hanno raccontato anche dell'imbarazzo, cioè il procuratore Morosini, il GIP Pier Giorgio Morosini, che è diventato nel frattempo togato del CSM per Magistratura Democratica, era tra coloro che dovevano giurare per il nuovo CSM. E racconta Liana Milella, si è avvicinato, ha giurato nelle mani del capo dello Stato, in platea in quel momento correva più di un brivido, il presidente lo guarda gelido, tutto dura un attimo, Morosini torna al suo posto ma risuonano di lì a poco le parole durissime di Napolitano sui magistrati, una casta chiusa. Protagonisti di una giustizia lenta e caotica, dal funzionamento insoddisfacente, toghe divise in correnti, perse in estenuanti e impropri negoziati alla ricerca di compromessi e malsani bilanciamenti. E Repubblica scrive, non è Renzi che parla, è Giorgio Napolitano, Giorgio Napolitano colui che presiede il CSM, ieri alla inaugurazione, diciamo così, del nuovo CSM, il passaggio delle consegne tra il CSM uscente ed entrante. Ebbene, Giorgio Napolitano ha parlato così e racconta Liana Milella, dietro le dichiarazioni ufficiali del Quirinale che dice va bene, Giorgio Napolitano non ha problemi a deporre, in realtà si parla dell'ira del Colle. Addirittura il Fatto Quotidiano racconta a pagina 3: Re Giorgio è stanco e può andare via. Così nell'articolo di Fabrizio D'Esposito, certo non gli è piaciuto come i PM siciliani abbiano interrogato i politici. E sono ore cupissime al Quirinale, racconta il Fatto Quotidiano, nere come le nubi del cielo romano alle 5 del pomeriggio quando Giorgio Napolitano risponde ai magistrati di Palermo: prendo atto dell'odierna ordinanza della Corte d'Assise di Palermo, non ho alcuna difficoltà a rendere al più presto testimonianza, secondo modalità da definire, sulle circostanze oggetto del capitolo di prova ammesso. È una nota che vuol dire che i magistrati dovranno andare al Quirinale, è la prima volta nella storia della Repubblica, scrive La Repubblica, di una vicenda del genere. E tra l'altro ci sono i timori per lo stress e per la tenuta fisica, racconta il Fatto Quotidiano, dell'89enne Giorgio Napolitano, e alcuni del suo staff dicono: vuoi vedere che entra da testimone ed uscirà da indagato? E il Fatto Quotidiano, in questo retroscena di Fabrizio D'Esposito, racconta a questo punto un Napolitano che potrebbe addirittura fare il passo di andarsene, di dimettersi. Staremo a vedere. Segnalo come cronaca che il Messaggero fa sapere che c'è una proposta del governo per risparmiare, anticipare il termine delle attività dei ministeri alle 18 e non alle 20 come oggi. Racconta tutto Michele Di Branco a pagina 3, un dirigente del Ministero dell'Economia ci scherza anche su. Bene, così ci sarà più tempo per fare la spesa e i consumi cresceranno. La questione in realtà è maledettamente seria. In clima di spending review si pensa di mandare tutti a casa alle 18 anziché alle 20. Questo taglierà gli straordinari e quindi farà risparmiare allo Stato. Inoltre si dice 2 ore in meno di spese energetiche, sì, se spengono la luce, ecco, questo è il problema. E poi si dice riscaldamento e aria condizionata, ma voglio sperare che i ministeri siano riscaldati anche di sera e di notte, se no uno ritorna al mattino e che cosa trova, così come per l'aria condizionata. Comunque l'idea è questa, dalle 20 alle 18 la chiusura delle attività dei ministeri. Mentre sempre sul Messaggero ci sono delle novità sulla RAI. Un decreto sul canone e tagli del 10% pure ai VIP. Questa è la notizia forse più pop, più popolare, racconta Claudio Marincola, pagina 5. A tutti i collaboratori della RAI che hanno la partita IVA, un macrocosmo che orbita fatto di conduttori, collaboratori, autori, programmisti, è stato ridotto il compenso. Un taglio tra il 5 e il 10%, una scure che si è abbattuta su tutti, nessuno escluso, a partire dai conduttori VIP, da Massimo Giletti, Antonella Clerici, Tiberio Timperi. Hanno già subito questo taglio, come tutti coloro che lavorano a partita IVA con la RAI. Questo almeno racconta il Messaggero. E poi si sta studiando novità sul canone. A proposito del direttore generale Gubitosi, nei giorni scorsi il Fatto Quotidiano aveva detto andrà via ad aprile. In realtà lui, in una dichiarazione, il Messaggero dice, smentisce, cioè dice: io ho solo detto che mi scade il contratto ad aprile, non ho detto vado via. E va bene. Se voi pensate di essere rallentati nelle vostre colazioni interminabili anche oggi o nelle vostre mattine un po' da debosciati, francamente, diciamocelo, non sarete mai rallentati quanto la lettera spedita in posta celere nel 2005 per andare da Agrigento ad Oristano è arrivata ieri, 9 anni dopo. Racconta tutto il giornale, il record della posta prioritaria Agrigento-Oristano, 9 anni. Il destinatario pensava si fosse persa per strada. Ma dai! Dopo 9 anni. Ma dai! Uomo di poca fede, questo destinatario. La lettera è arrivata 9 anni dopo. Va bene, ma comunque vince il premio la carta costa. L'articolo più inutile, scovato oggi sui giornali, a mio insindacabile giudizio, oggi il Fatto Quotidiano con Wanda Marra che racconta in una pagina l'English Macaroni di Matteo che imbarazza New York. Ma sì, ci abbiamo riso anche noi, ma scriverne mezza pagina sull'English di Matteo che comunque risponde. Io non parlo l'English. Parlo il globish, l'ha detta Renzi, giuro. Vince il saggio, tutto è bene quel che finisce bene e... E l'ultimo, chiuda la porta. Eccoci qui cari ascoltatori, sono le 8:19 minuti, se volete intervenire in diretta il numero lo conoscete, 800 24 00 24. Ieri sui giornali è comparsa un'ipotesi per affrontare la questione degli immigrati in Italia, un'idea che peraltro ha diviso subito la politica, ha creato polemiche. L'ipotesi allo studio era questa: dare alle famiglie italiane che accettano di ospitare temporaneamente un migrante 30 euro al giorno. 30 euro al giorno fanno 900 euro al mese, insomma anche una cifra discreta. L'ipotesi era stata sottoposta all'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni, c'è stato anche un sindaco, il sindaco di Roma, quindi la città più importante, Ignazio Marino, che aveva manifestato anche apertura a questa idea. Per la verità, ieri, dopo le polemiche in serata, il ministro all'interno Alfano è intervenuto dicendo questa ipotesi, a mio modo di vedere, non dovrà mai essere praticata. Io boccerò questo tipo di ipotesi. E però l'idea di poter garantire fino a 900 euro a famiglia pronta ad accogliere un migrante in casa era ed è un'idea del sottosegretario all'interno Domenico Manzione, che saluto e che è con noi. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Allora sottosegretario, partiamo dalla coda se vuole. Ha sentito che Alfano ha detto questa ipotesi non verrà mai accettata da me e quindi dal ministero. Come la mettiamo? Ma guardi, ovviamente né il sindaco Marino né il ministro Alfano hanno bisogno della mia modesta prestazione da difensore d'ufficio. Il comunicato del ministro Alfano, col quale peraltro io ho parlato, è chiarissimo, nel senso che si tratta di un'ipotesi, se si intende attingere ai fondi ministeriali, che è stata già valutata dal ministro e quindi è un'ipotesi non percorribile, siccome si tratta di erogazioni che può fare solo il ministro, il dato è un dato di cui prendere semplicemente atto, quindi è un'ipotesi che in questa direzione il tavolo non potrà sviluppare. Cioè l'ipotesi che paghi il ministero. Esattamente. Però c'è perché la sua ipotesi invece prevede qualcosa di diverso. No, l'ipotesi era in realtà molto più articolata, le dico subito. D'altra parte aggiungo anche che a parte l'entusiasmo del sindaco Marino, tuttavia egli si pone un problema reale. Come lei ha visto, a Roma si sono verificati un paio di episodi di significativa intolleranza, quindi la preoccupazione del sindaco Marino è evidentemente quello di fare in maniera che il tessuto sociale non degeneri e quindi non dia luogo a forme di intolleranza di quel genere. Detto questo, quindi dato per assodato che chi decide è il ministro Alfano e su questo non c'è discussione, lui ha già fatto la sua valutazione di questa ipotesi, il che ovviamente imporrà al tavolo di tenere conto esattamente di quello, dell'indicazione che ha già dato il ministro Alfano. Però di fatto succede che, per capirci, perché altrimenti sì, nella polemica politica l'ipotesi si corre il rischio di non comprenderla. Il problema è questo qui. Noi ad oggi abbiamo circa 137.000 sbarchi e abbiamo un sistema che è stato approvato dallo Stato e dalla Regione in conferenza unificata che prevede, diciamo così, 3 livelli, un primo soccorso, una prima accoglienza e una seconda accoglienza. Come lei sa, tutti quelli che sbarcano, perlomeno la stragrande maggioranza di loro, calcoli che di questi 137.000, 60.000 sono solo eritrei e siriani, quindi verosimilmente persone, fuggono da guerre, fuggono da situazioni di guerra. E quindi persone che probabilmente sono meritevoli o dell'asilo o della protezione sussidiaria o talora della protezione umanitaria. All'interno del nostro sistema SPRAR, però evidentemente che è un acronimo che sta a indicare il sistema per la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, giusto appunto, sì. Con flussi da 137.000 o addirittura da 150.000, come è facile prevedere, si arriverà a fine anno, può trattenerle all'interno di questo sistema, diciamo così, per un lasso temporale limitato. Sì. Ed ecco, è da qui che nasceva l'idea. Dopodiché bisogna che ne escano, altrimenti lei dopo sei mesi, per quanto il piano possa essere ben articolato, tuttavia corre il rischio di intasare tutto il sistema, no? la continuità dei flussi. Per questa via sono state sperimentate, le dico per esempio, dalla Caritas italiana una serie di progetti piloti, in ragione del quale, sia chiaro, sulla base di mera volontarietà da parte delle famiglie, sì. Una ipotesi in cui l'ente gestore, che in questo caso è la Caritas, per il percorso finale dello SPRAR, ai fini dell'integrazione, perché non è che quando è finito lo SPRAR bisogna evitare che finiscano sulla strada o addirittura li inserisce in famiglie ed è la stessa Caritas che dà un piccolo contributo del quale viene sgravato l'ente gestore, perché per il sostegno e così via, e gli dà la corrispondenza di quel contributo che prende. Lo dà alla famiglia. Però mi scusi, quindi lei mi sta dicendo che non sono fondi in più, sono fondi che il Ministero già dà agli enti gestori, poniamo la Caritas. La Caritas prenderebbe queste persone e le inserirebbe in famiglie che volontariamente accettano questo, e la Caritas gira i soldi che prende dal Ministero alle famiglie. Esatto, gli dà quello che lei spenderebbe per il sostentamento quotidiano, lo dà alle famiglie che ovviamente spendono la stessa cifra, sì. Quindi ma quindi mi scusi, su queste basi che ci ha spiegato molto bene, è ancora in ipotesi questo piano di studio? Ma guardi, questo di fatto è già praticato, nel senso che ci sono 9 Caritas diocesane che già hanno affidato a 25 famiglie dandogli un piccolo contributo per il mantenimento, che è quello che sarebbe destinato allo stesso ente gestore. Quindi lei vorrebbe semplicemente estendere. Perché però è passata così? Cari famiglie, prendetevi un immigrato in casa e vediamo 900 euro. Questo probabilmente è facile da immaginare, nel senso che capisco che l'immigrazione è un nervo scoperto, un momento molto sensibile dal punto di vista politico, si presta facilmente a strumentalizzazione, quindi è passato un messaggio rispetto al quale probabilmente l'opposizione veniva anche piuttosto agevole, ecco. Ma in realtà, ripeto, il progetto, ma questo è uno dei tanti progetti, le dico, ci sono altri progetti per esempio che riguardano l'autogestione, che devo dire, se ci sono territori abbandonati rispetto ai quali nessuno mostra interesse e che invece una forma di immigrazione che ha già l'expertise adeguata per poter svolgere quel tipo di attività volesse gestire, potrebbe farlo. Ci sono progetti che riguardano invece la possibilità, come dire, di un incremento economico nostro, nazionale, sì, rispetto all'immigrazione. Start-up che si occupino del fenomeno dell'integrazione quando è finito il percorso all'interno dello strato. Però scusi, sottosegretario, a questo punto lei deve convincere Alfano, cioè perché Alfano ha detto no, se tra l'altro ci sta spiegando che questi progetti, seppur in piccolo, già ci sono attraverso la Caritas a Roma, cioè c'è stato qualche cortocircuito di comunicazione forse, no? Guardi, verosimilmente è esattamente come dice lei, nel senso che c'è stato un cortocircuito di tipo informativo, il ministro si è già espresso con riferimento a una ipotesi, e a quella ipotesi ovviamente noi ci atterremo, nel senso che quella ipotesi non la prenderemo in considerazione, casomai io posso provare a verificare se è possibile discutere di quest'altra di quella che è già praticata. Perché Alfano ha detto non daremo mai 30 euro alle famiglie, ma lei ci ha spiegato che sono soldi che già il Viminale eroga agli enti che gestiscono. Non li eroga al Viminale. Viminale, non dialoga al Viminale, è dialoga direttamente agli enti di gestione, perché le strutture sono dello Stato. Sì. Ma lei sa, chi gestisce i centri di accoglienza in realtà sono strutture del terzo settore. Chiaro. Le strutture del terzo settore le gestiscono sulla base di una gara, e il discorso dei 30 euro è andato in una maniera, se vuole, banale, perché la base di gara attraverso la quale si arriva all'attribuzione all'ente gestore della gestione, mi scusi il bisticcio di parole, di quel determinato centro è di 30 euro. È di 30 euro. Tutti hanno immaginato che si potessero dare allegramente 30 euro al giorno alle famiglie italiane, ma non è questa l'ipotesi. Non è questa l'ipotesi. No, senta, lei ci ha fatto una cifra prima, ha detto che sono 137.000 gli sbarchi, ma ogni quanto? Sì. Ogni quanto? Dall'inizio dell'anno a oggi. Dall'inizio dell'anno a oggi. Esatto. E si potrà arrivare a 150.000 secondo le stime? Guardi, può arrivare a 150.000, ovviamente è facile immaginare, tutto dipende dalla geopolitica, da come si sviluppa la situazione geopolitica, perché sì, certo, quello che sta succedendo in Turchia, nel Corno d'Africa, adesso anche in Libia, sono come dire, situazioni rispetto alle quali è difficile fare ogni tipo di previsione. Ad oggi io le posso dire che è la cifra più alta di sbarchi che abbiamo mai registrato italiano, e questo me lo faccia dire non solo per riconoscenza nei confronti di tutto il Ministero dell'Interno, dal Ministro all'ultimo della struttura, siamo riusciti a gestire in condizioni di ordinarietà 137.000 sbarchi. Se lei pensa che il numero più elevato che c'è stato fino ad oggi è stato quello della primavera araba, sono stati 62.000, cioè meno della metà, e sono stati gestiti in emergenza e con commissario. E 150.000 potrebbe essere una stima entro la fine dell'anno, cioè in tutto l'anno. L'ultima questione è questa, però, sottosegretario, non appare come, lei ha detto, in realtà siamo riusciti a gestire finora 137.000 sbarchi, cioè una cifra imponente, non è che appare questo progetto come una sorta di resa dello Stato, cioè non ce la facciamo a gestire tutti questi migranti, quindi famiglie, attraverso ovviamente il processo che ci ha detto, dateci una mano. No, al contrario, siccome le ripeto, la stragrande maggioranza di quelli che arrivano sono asilanti o richiedenti protezione internazionale, se noi non vogliamo fare un lavoro, diciamo così, abbastanza ipocrita, che è quello di salvarli mentre sono via mare e poi disinteressarci nello stesso momento in cui mettono piede sul territorio nazionale, dobbiamo integrarli. Dobbiamo di necessità pensare intanto a un intervento di Europa in materia di resettlement, per cercare di fargli raggiungere le sedi che loro realmente vogliono raggiungere, perché come lei sa molto pochi si vogliono fermare sul territorio italiano. B, per quelli che per avventura si volessero fermare sul territorio italiano, bisognerà in qualche maniera immaginare un piano di integrazione, altrimenti, le ripeto, finiamo per creare ulteriori problematiche che sono o l'occupazione di stabili pubblici, si verificano a Roma, a Firenze, in altre città italiane, oppure la dispersione per strada con fenomeni di microcriminalità e conseguentemente intolleranza, scontri e così via discorrendo. Quindi è un problema che ci dobbiamo porre. Va bene, intanto vedremo come va avanti questo progetto sulla base di quello che ci ha detto, se riuscirà a, come dire, non neanche a convincere, a spiegare al ministro Alfano che è una cosa diversa rispetto a quella che è apparsa almeno sui giornali. Intanto a dare atto intanto ovviamente che chi decide alla fine è lui, perché chiaro, è il ministro dell'interno, quindi Ma l'ipotesi che è stata rappresentata sui giornali non è l'ipotesi di cui stava discutendo il tavolo, quindi fermo restando che a quella ipotesi non verrà dato alcun tipo di seguito, vediamo se per caso in forme diverse si può fare. Intanto, sottosegretario, la ringrazio per essere stato con noi. Domenico Manzione, voglio ricordare, il sottosegretario all'interno. Avremo ospite dopo la pubblicità anche Guido Bolaffi, che è esperto di immigrazione, per parlare anche di altre tematiche. Parleremo, ricordo, anche di lotta alla prostituzione. Alle 8.45 avremo l'onorevole Gigli di Scelta Civica, insieme ad altri colleghi, propone di multare i clienti di prostitute, prostituti, transessuali, tutti insomma. 24 mattino. Siamo qui, sono le 8.37 minuti. Allora, vogliamo parlare di immigrazione. Abbiamo avuto il sottosegretario all'interno, Domenico Manzione, ci ha spiegato com'è questo piano sul quale Alfano ha detto no ai migranti ospiti in famiglia in cambio di denaro. Ma il sottosegretario Manzione ci ha spiegato che la vicenda è un po' diversa. Intanto voglio salutare Guido Bolaffi, che è esperto di immigrazione e direttore di West, buongiorno. Buongiorno.info.eu. Bolaffi si occupa da decenni decenni di queste. Un po' di anni, qualche anno di questi temi, di questi temi. Allora si può essere giovanotti a 30 anni, decenni vuol dire 20 anni di questo tema. Allora, non so se lei ha sentito il sottosegretario Manzione. Purtroppo accompagniamo mio figlio a scuola. Allora, però il tema è questo, perché oggi sui giornali c'è stato un cortocircuito a dire non diamo Alfano, non ammettiamo i migranti nelle famiglie in cambio di denaro. In realtà il sottosegretario Manzione ci ha detto che la vicenda è diversa, che già alcune persone che hanno diritto probabilmente ad avere i requisiti per essere considerati rifugiati o profughi vengono affidati a enti gestori, non so, ci ha fatto l'esempio della Caritas, e in questo caso la Caritas potrebbe appoggiarli a qualche famiglia che volontariamente accetta, e la Caritas gira una parte del denaro che riceve per gestire queste persone alle famiglie. Messa così, non è che prendiamo i migranti e li spediamo così a 900 euro al mese nelle varie famiglie. È un modo per gestire i flussi migratori, Bolaffi, anche questo? Intanto dobbiamo distinguere se parliamo di rifugiati, richiedenti asilo o di immigrati. Sono due concetti, sì, fondamentalmente, certo, diversi. Lui parlava, il sottosegretario, probabilmente di inserire le persone che presumibilmente poi avranno riconosciuto il diritto a essere rifugiati. Questo è un punto fondamentale, perché a prescindere dal fatto che noi siamo molto, come dire, coraggiosi, e secondo me abbiamo va a nostro onore il Mare Nostrum per moltissimi aspetti, ci sono gli altri aspetti in cui esce fuori il carattere un po' purtroppo del nostro paese, un po' pasticcione, un po' strafalcione, nel senso che poi in nessun paese al mondo chiede il rifugio, lo status di rifugiato, poi può tranquillamente, finché non è decisa qual è la sua situazione, gironzolare per il paese, cosa che invece purtroppo da noi avviene, per tante ragioni non perdiamo tempo, ma insomma questa è la verità. E quindi è evidente che, se stando così le cose, la questione delle famiglie, e per fortuna mi pare che il ministro degli interni ha chiuso il discorso, era una cosa che non stava né in cielo né in terra, non c'è un caso al mondo di questo tipo. Non c'è un caso, però ci sono casi, c'è detto il sottosegretario, in cui allora, appunto, è un'altra cosa, ma è quella a cui l'ipotesi allo studio è quella, non quella apparsa sui giornali. C'è un ente semi pubblico o pubblico, può essere anche il Comune di Roma, sì. Voglio dire la Caritas, può essere il Comune di Roma. Già adesso, ne pensi, adesso quando arrivano i minori non accompagnati, che sono una subspecie dei richiedenti asilo, vengono affidati a delle strutture dei comuni, e ce ne sono migliaia in Italia, migliaia. E certo. Se noi andiamo a vedere i conti, in molti comuni c'hanno i conti in molti casi in rosso, perché il costo di questi di questi bambini minori, chiamiamoli così, poi sa, l'età su quelle cose, siamo in zone grigie, possono avere, dire che hanno 13 anni, ce ne hanno 17, non lo sa bene, perché sa, paesi che non hanno l'anagrafe, come fa a sapere esattamente Guido Bolaffi condannato? In alcuni casi sì, in alcuni casi sono proprio bambini, evidentemente, in alcuni casi però sono. Però no. Comunque, ritornando al nostro discorso, è evidente che le esperienze di altri paesi da questo punto di vista già lo dimostrano, è possibile, cioè per coloro che sono in attesa, attenzione, sono in attesa della definizione del loro status, ci sono delle strade. Coloro che hanno già ricevuto il riconoscimento di status, ce ne sono evidentemente delle altre, perché uno che ha ricevuto il riconoscimento dello status, va bene, è una persona che ha tutti i diritti, e quello si cerca lavoro, può sposarsi, può far figli, voglio dire. No, ma è chiaro. Quello è chiaro. Che invece è in attesa, e quindi è sub giudice, deve stare in strutture che in qualunque momento lo rendano raggiungibile, deportabile o in qualche maniera In questo caso quindi anche una persona che la cui pratica non è ancora conclusa non può essere che affidata allo Stato, o comunque a enti gestiti dallo Stato. No, può essere affidata, ma le enti se ne prendono la responsabilità del controllo. E capisco che metterli in famiglia sarebbe un terzo controllo, esatto. Che non si sa chi è, ma chi se lo prende a casa? Questo effettivamente anche. Ma chi se lo prende a casa? C'è effettivamente anche questa. No, ma è chiaro che sarebbe tutto su base. Però sa, mettendola così come apparsa, però c'è un guadagno, c'è una possibilità di. No, ma se c'è un lente che garantisce lui. Allora, cioè, va lui di fronte in mezzo ai guai, se sbaglia, allora la cosa è diversa. Ho capito, ma però lui... se poi l'ente lo, diciamo, mette in una famiglia, perché dice l'ente, fidatevi di me, cari signori, coniugi, è una persona per bene, e pagherà lui, però poi c'è sempre la famiglia di mezzo. Ma appunto, allora, però, se la famiglia se la prenderà, cioè, voglio dire... mi pare che siamo a livelli proprio, io non mi risulta, perché una cosa che è una Caritas, conosco le Caritas del Canada che fanno questo lavoro, non conosco Caritas del Canada che lo danno a Guido Polassi a casa, non mi risulta, cioè lo gestiscono loro. Però, sai, le vie del Signore sono infinite, siccome l'Italia una cosa manca, non ci manca la fantasia, va bene anche questa, no, perché come era apparsa, sa che molti, anzi, ci hanno già scritto a dire, ma perché no, mi prendo una potenziale Golf e mi prendo pure 900 euro al mese, sa, gli italiani poi sono così. Sì, ma la Golf che status ha? C'è documenti o nei documenti? No, ma è chiaro, è una signora che ha commesso un reato. È un'estrema semplificazione che però gli italiani subito hanno percepito dai giornali, così. Perché però esce fuori l'aspetto di Alberto Sordi degli italiani. Un po' sì. Senta, per concludere, Bolaffi, il sottosegretario Manzione ci ha detto che comunque l'Italia ha gestito finora 137.000 sbarchi all'inizio dell'anno, arriveranno forse, presumibilmente, a 150.000, quando l'apice con la primavera araba era di 60.000. È davvero quindi sono cifre così imponenti ora da gestire. Guardi, quello che sta succedendo lì è la dimostrazione poi da una parte del grande merito che c'ha il nostro paese, lo dico francamente, perché preferisco essere cittadino di un paese accusato di fare troppo e non troppo poco per i bambini che affogano, dall'altra è la dimostrazione che perché l'Europa poi è destinata a sciogliersi. Ma quando mai al mondo un paese che, come gli Stati Uniti, che è formato da tanti stati, che si lascia il Nevada da solo? Se arrivano 50.000 haitiani? Certo. O è le autorità federali che intervengono? Questa è la grande tema dell'assenza dell'Europa. È grande assenza, in realtà non è però soltanto assenza, perché l'Europa funziona anche come una grande magnete. Ci facciamo male con le mani nostre, perché siamo, come dire, troppo grandi, ma anziché dire troppo grandi per cadere, troppo grandi e cadiamo, perché è chiaro che attiriamo, è un paese ricco, vecchio, pieno di benessere, quindi scusi, se io sto in Siria, ma dove cerco di andare? Certo, in Europa. Posto più vicino. In Europa. Quindi no, infatti noi siamo assenti, cioè siamo presenti geograficamente lì belli, grandi come Europa, siamo una calamita e però poi siamo assenti come vari stati, oppure ognuno gira la faccia dall'altra parte, mi sembra di capire. Soprattutto siamo nel periodo, secondo me, più grave della storia politica mondiale, europea, dopo la seconda guerra mondiale, quindi il livello è quello. È quello. Io intanto la ringrazio, grazie a Guido Bolaffi per essere stato con noi, voglio ricordare, esperto di immigrazione, direttore, potete trovare il sito, è www.west-info.eu. Grazie a Guido Bolaffi, e dopo il traffico avremo ospite un onorevole che è già con noi, l'onorevole Gianluigi Gigli di Scelta Civica, che saluto. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Le chiedo un minuto di attesa, perché lei è firmatario di una proposta di legge che fa molto discutere insieme ad altri colleghi, che prevede multa, ma anche fino alla possibilità del carcere per i clienti delle prostitute. È il modello cosiddetto svedese. Allora, proposta di legge dell'onorevole Gianluigi Gigli e colleghi alla Camera, Gianluigi Gigli di Scelta Civica, è questa, caro onorevole: chiunque ottenga rapporti sessuali occasionali a pagamento la prima volta, multa da 500 euro a 2.000, in seconda, in recidiva si raddoppia, terzo caso si triplica, e in caso di reiterazione più volte il cliente può essere condannato fino a 3 mesi, 1 anno di carcere. Come mai, onorevole, così punire il cliente? Mi consenta intanto una premessa necessaria. Sì. Il nostro gruppo non si chiama più Scelta Civica, sì, come lei sa, c'è stata la divisione, sì, certo. Ma il gruppo parlamentare per l'Italia, quello presieduto dall'onorevole Dell'Ai. Precisato questo, vengo alla sua domanda. Il fenomeno della prostituzione è una piaga, e lo è diventato ancor di più da quando ormai è legato a una vera e propria tratta degli esseri umani. spesso minorenni, in ogni caso provenienti da situazioni di enorme disagio, di enorme difficoltà sociale, di guerra, di comunque vessazione della donna. Il fenomeno, si dice, è sempre esistito, è il mestiere più antico del mondo e tuttavia è legato certamente ad una mentalità che è la mentalità maschilista, nella quale comunque il rapporto, diciamo, tra l'uomo e la donna è visto in maniera certamente asimmetrica. Il problema è che al di là della tratta degli esseri umani, che pure secondo le Nazioni Unite è comunque il fenomeno oggi prevalente nella però vicenda prostitutiva. Per quella ci sono i reati che vanno perseguiti. Ma al di là di questo, cioè, resta il fatto che in qualunque circostanza, e lo dimostra soprattutto il fatto che la metà circa delle prostitute in tutti i rapporti dichiarano di aver iniziato a prostituirsi già in età attorno ai 18 anni, diciamo di solito dietro c'è comunque poco o tanto o una condizione di bisogno o una condizione di abuso. Quindi un cliente, secondo me, una persona, un uomo, generalmente è un uomo che va a prostituire, diciamo il 99,9%, è un uomo, sfrutta, come dire, è complice di questa tratta di schiave. Diciamo che è complice comunque di una situazione di abuso. Io non credo che esista nessuna donna che prima di cominciare possa dire io ho questo come vocazione. Vocazione no, però scelta libera? Scelta libera? Scelta libera, le ripeto, io per quello che abbiamo potuto osservare e vedere nella stragrande maggioranza dei casi vi è comunque una situazione di abuso almeno psicologico, se non di coercizione, se non di bisogno. E quello che poi comunque continua ad esistere, e questo pure è ampiamente documentato, che nella prostituzione, anche quella legalizzata, spesse volte il cliente, proprio perché è convinto, dice io pago, no? È convinto di poter comunque andare al di là anche del pattuito e esercitare comunque violenze che vanno dal rifiuto, che ne so, dei sistemi di protezione, fino a prestazioni fuori contratto, fino a comunque violenze. Insomma, quindi arrivare alla multa, da qui nasce l'idea di multa e addirittura educativa, una multa chiamiamola educativa. E quello che è il modello svedese, come lei l'ha chiamato giustamente nell'introduzione, proprio questo fa, e l'ha dimostrato dati alla mano, nel senso che non solo in Svezia, in un l'arco di tempo relativamente giovane, la rilevazione faceva riferimento, relativamente piccolo, faceva riferimento a circa 13 anni, il fenomeno della prostituzione si è ridotto di numero di circa, in un rapporto di circa 1 a 5, cioè si è ridotto a 5 volte, ma soprattutto si è ridotto di circa la metà il numero degli uomini che comunque in maniera anonima dichiaravano di aver comprato, diciamo, sesso a pagamento. E è dato ancora più interessante, mentre quando la legge svedese è passata, la percentuale degli uomini che si dichiaravano favorevoli alla punizione del cliente era molto bassa, testimonianza appunto di una certa mentalità maschilista, è triplicata, è passata dal 20 al 60. Senta, ma come la mette con i leghisti? I leghisti ne fanno una battaglia politica, ma anche molti italiani che dicono invece bisognerebbe legalizzarla, bisognerebbe rendere la prostituzione un qualcosa di certificato, in modo da guadagnarci anche dei bei soldini, no? Con la tassazione. Ma guardi, io penso che i soldini guadagnati con le cose storte non fanno mai bene all'erario, nemmeno cosa quelli, per esempio, con le slot machine, nemmeno quelli, che sia una cosa storta penso lo dicono tutti, anche quelli con le slot machine. Ma cioè, secondo me, perché dipende da capire quante persone lei immagina che possano liberamente sfruttare il proprio corpo per guadagnare. E credo che siano appunto molto poche. Io però le dico che al di là dei leghisti, dei quali mi interessa relativamente, c'è una risoluzione di quest'anno del Parlamento europeo che incoraggia ad andare in questa direzione, ci sono pronunciamenti delle Nazioni Unite e soprattutto c'è un dato di fatto che nella Germania, dove come lei sa invece il fenomeno è legalizzato assolutamente. Appunto, il gettito per l'erario si è dimostrato molto, molto, direi quasi infinitivamente più basso rispetto alle aspettative. Beh, rispetto alle aspettative, sì, però c'è almeno qualcosa. Cioè, non emerge per nulla, voglio dire. Beh, forse uno. Certo, le cifre che si leggono 4 miliardi, 5 miliardi, però anche se fosse un miliardo, buttalo via. Anche se fossero pochi milioni. E buttalo via, però. Vabbè, però voglio dire, cosa ci porta poi in termini, soprattutto di un altro fenomeno, parlo della criminalità, e qui sono i dati olandesi che parlano, le procure, cioè attorno alla prostituzione, anche quella legalizzata, l'Olanda è un altro paese dove è legalizzata, come le sa, dalle famose case a luci rosse e quant'altro, Beh, il fenomeno della criminalità che ruota attorno a questa, questa è aumentato. No, si è mantenuto costante, forse si è addirittura aggravato. E questo è, ha dei costi sociali anch'esso, se mi consente, ben più gravi di quelli delle poche decine di milioni di euro. È chiaro. Comunque, ricavare. Onorevole Gigli, la vedo molto convinto, molto appassionato e molto sicuro del tema. Se lei è d'accordo, onorevole Gigli, per l'Italia, gruppo per l'Italia, organizzeremo un bel dibattito, magari tra lei e un leghista invece ben convinto dall'altra parte, no? Su questo tema, legalità. Legalizzare la prostituzione da una parte, no, colpire e punire il cliente modello svedese dall'altra. Intanto la ringrazio per essere stato con noi, con Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione, con il nostro Peter Bescapè in regia. L'appuntamento è rinnovato a lunedì prossimo. Si chiude oggi la 73esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province, con un nulla di fatto, ma la 74esima settimana decisiva è alle porte. Ottimismo, ottimismo italiani, ottimismo.